Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Buona domenica! Buona domenica. Come, perché ridi? Così, per cominciare a ridere. Perché? Ah, così inizi? Intanto sì, sì, io no, rido. Ma mi è venuto in mente... Siccome facevi questo gesto, no? Mi è venuto in mente... Vabbè. Le tette, no. No, sì, anche più o meno. Fabio De Luigi, le chiappe, sì. Che roba, perché voi dovete sapere che Angelo passa ore e ore e ore a guardare i Love Bugs di Fabio De Luigi, che già ha visto 300 volte, che li sa a memoria, sì, e fanno, sì, comunque adoro, ridere. Adoro. Anche io sono una fan Love di Fabio. Bugs. Fabio mi fa molto ridere. Allora, a proposito di prospettiva dal mondo animale, poi presentiamo, adesso facciamo finta di niente, ci abbiamo qui un ospite, la presentiamo fra un po'. Tra poco. Partiamo a parlare di B. Di B. Bee Gees. No, il Bee Gees che vuol dire? Le api ribelli, cosa vuol dire? Che cacchio? Bee Gees. Vabbè, quindi parliamo di api, perché di api. Cioè, c'è una prospettiva. L'ape maia, bello. A me piace più l'ape magà, però. Ah, cacchio, Peter, no, no. Non sei attento. L'ape maia va bene perché è allegra. L'ape magà era di una tristezza. Ma che cacchio quello, ma era un dramma. L'ape magà. Quello non, i bambini non dovevano ma vedere l'ape magà. Ma non è nato quando c'era l'ape magà. Ma cosa stai dicendo? L'ape magà ti buttava in depressione quel cartone animato, ma lì. Stupido, era tutti i drammi. Peter, metti qua. Ecco, appunto. Domenica scorsa. Allora, parliamo del mondo dalla prospettiva delle api. Allora, c'è una bella invenzione. Bellissima. Questa bella invenzione si chiama Flow Hive. Esatto. Allora, praticamente tu metti una casettina con dentro le api, con i loro favi e via dicendo, e per estrarre il miele praticamente apri un rubinetto e il miele cola direttamente in un boccaccio. Perché io non sapevo, fino a che tu non mi facevi notare questo articolo con questa invenzione fantastica, che purtroppo anche le api pativano l'inferno a prendergli il miele, morivano, gli si spruzzava dentro il fumo, queste poracce si intossicano. Sì, diciamo che non è proprio tutto rosa e fiori. Esatto, non è una passeggiata di salute, diciamo, ecco. Ovviamente. E quindi in questo caso invece... No, ma poi è anche molto più pratica sta roba qua. Per tutti, anche è per l'uomo. Perché cioè, non per si noi che dobbiamo stare più facile. Quindi le api vengono rispettate ed è più facile l'estrazione del miele. Esatto, quindi insomma vogliamo assolutamente appoggiare questa iniziativa che si chiama... Flow Hive. Flow Hive. E quindi? Che cacchio ridi, sai? Mi guarda e ride. No. Io lo so, ma che scusami, sono battutista, ho detto come che si chiamava? Scusa, come si chiamava il gruppo di Kiss Me Licia? Ma cosa stai dicendo? Ma che ne so? Ma tu guardavi Beehive. Kiss Me Licia. Erano i Beehive. Scusa, no, mi viene in mente B che è ape, Hive. No, no, scusate. No, ma chissà che passeggiata. Non è per buttarla in vacca. Allora, di... allora parliamo Vaira. Di quando tu ti trasferisci in campagna, no? Ti trasferisci in campagna. Non ti dico a sognare che cosa, perché ho avuto una battuta degli Squallor tremenda. Cosa fa rima con campagna? Tu che sei romana dovresti capire. Vabbè, non certo, diciamolo. Non si può dire, no, però. E allora vediamocela tra di noi. Vabbè, poi ce la diciamo con calma. Presentiamo l'ospite. Allora, abbiamo un ospite che ha scritto Fottuta Campagna. Cioè, è un libro, lei è una scrittrice, e porta in giro per teatri, per arene, per, insomma, per le piazze, questi suoi scritti. Sono molto divertenti. Io l'ho conosciuta perché aprendo Facebook a un certo punto è venuto fuori un video in cui lei parlava di quando uno ha un cane e incontra gli altri proprietari di cani che vogliono... o altre persone che vogliono per forza toccare il tuo cane, no? Lei si chiama Arianna Porcelli Safonov. Ho visto che leggevi però il nome. Eh beh, cioè, tra Safonov e Spornitov. Safonov. Ci dobbiamo abituare agli immigrati. Sì, vabbè, adesso Safonov. Allora, purtroppo insomma, non parla russo, anche se è di... Te che ne papà. Pensi di questa roba delle api? Tu fai anche apicoltura? No, però campagna. Conosco un sacco di apicoltori. E ecco. Posso confermare che è molto simile a uno stupro. Ecco, vedi. E quindi diciamo a questi apicoltori, visto che li conosci, che c'è questo metodo, che peraltro è meno rischioso anche per loro, perché non devono mettersi addosso tutto lo scafandro. Vengono punti. Invece in questo caso un rubinettino, una cosa vedo fantastica. Pochi apicoltori che si mettono ancora la tuta da palombaro, sì. La maggior parte hanno queste mano, come si dice a Roma, ste mano che diventano dei guanti di carne. Per la sua fazione sono lì, ormai sono immuni. Però ho sentito di qualcuno che invece sensibilizza. cioè col fatto che viene punto, a un certo punto poi deve stare attento perché sennò gli viene uno shock anafilattico. Certo. Basta sulla punta. Sì, sì. È esattamente quello che avviene con me col vino, cioè non puoi più bere. No, posso bere oltremodo perché ormai fa parte del... Esatto. Che vino ti piace, rosso o bianco? Ormai vivo in un posto dove la bonarda è... Senti, ma allora tu, grande amante degli animali, da quello che ho capito, grande amante della campagna. Lo ero, però eri amante della campagna. Allora, il libro si chiama Fottuta campagna, edito da Fazzi editore, che saluto. Che saluto, ok. Tra poco invece esce anche un altro tuo... Non ti si sente, tira sulla faccia. Tiro sulla faccia. E tra poco invece esce un altro tuo libro. Esatto. Non si può dire. Ti aiuto io, che lo so a memoria, Storie di Matti. Ecco, perché uscirà io non a luglio. Lo so, sì. Storie di Matti. Che dialogo fra due, non so, una sveglia fra un due distratti. Allora, allora non so, ci vuoi leggere qualcosa? Quanto tempo abbiamo, Peter? Due minuti. Oh, signore, che ansia. Beh, abbiamo parlato del pezzo sui cani. Volete sì, che vai, vi leggo un pezzo? Vai, ma sì, proprio un pezzo, una robina. Pezzettino. Poi tanto lo riprendiamo dopo. Ed è una domanda che lancio a tutti: come possiamo difenderci da quelli che incontriamo per strada e che vogliono per forza flirtare col nostro cane, chiedendoci anni, sesso, nome del nostro cane? A parte che il sesso del mio cane, posto che l'argomento sia di incontenibile importanza per la vita di uno sconosciuto, è facilmente identificabile da quando esistono i libri di educazione sessuale. Ciò che risveglia in me odio imperituro è l'atteggiamento della gente che prova a indovinare chiedendomi per strada «Maschio?» E se io faccio cenno di no, loro imperterriti si sbrigano a chiedermi «Femmina?» Allora a quel punto, io che sono una dispettosa, per me diventa doveroso rispondere che no, non è manco femmina, facendo partire tutto un teatrino di merda che mi fa perdere montagne di tempo in risatine per strada con un perfetto sconosciuto che magari manco c'ha il cane, ma vuole soltanto no sentire quel manto peloso e poi tornarsene a casa con la sua poltrona frau inamidata. Bravissima. Oppure voleva rimorchiarti, cara. Non avviene più da tempo quello. Perché non c'è più un cane? No, perché vivo in campagna, ti dicevo, con 12 abitanti, quindi ormai sono finiti. Vabbè, però guarda, anche quei 12 lascia fare. Anche quei 12, quelli che arrivano dai paesi limitrofi, capisci? Angelo va sempre in giro col suo cagnolino, fa ore e ore di passeggiate perché nel tentativo. Ma l'ho capito adesso. Rimorchia. Non so, vabbè. Rimorchia. No, invece è arrivato Little Tony. Come? E infatti io sto caricando il letame, poi trasporto il letame, poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda. Grande Renato Ponzetto, lo adoro, cioè ti giuro, io sarà che ho un'età e sono cresciuta con lui, ma la parlata di Renato mi faceva troppo ridere. Il poeta e il contadino, tu sei un po' il poeta e il contadino assieme. Effettivamente, poeta contadina. Contadino poco, non coltivo, però magno, bevo esattamente come che un contadino. Che cavolo sei andata a fare in campagna, scusa? Questo a magna e beve. Ho scoperto che in campagna il bio costa di meno, e quindi... Ah, vedi? Ah, sì? Certo. E che c'entra? Scusa, sempre bio è? Perché in campagna? Perché non è nei supermercati bio. Ma quindi vai a comprare direttamente dal conto. Non c'è il markup. Qui avremo delle vere dritte, no? Da parte di una che la campagna la vive, capito? Sì, infatti. Bene, allora, facciamo una breve pausa e ci ritroviamo subito dopo. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Adesso abbiamo un ospite nuovo oggi pomeriggio che ci farà... Buongiorno! Dai, ma che pirra, mi ha rovinato tutto, volevo presentarti come non un mi toccare, doppiato... mi fai schifo, guarda, è scritto qua sopra pure. Oh, è scritto nel testo, lasciami stare bio. Vabbè, adesso vedrai. Ormai che... abbiamo detto con Guido Alberto, decidiamo la data, ti faccio il completo. Il completo del matrimonio. Avremo fra poco un ospite, un mio caro amico Attilio Fontana, con cui abbiamo fatto teatro, che ci racconterà un po' di cose sulle piante, perché poi parleremo anche di piante. Ma siamo qui oggi in compagnia al cospetto, è vero, di Arianna Porcelli Safonov. Ale Safonov. O Safonov. Bisogna lanciarsi in queste cose. Safonov. No? Com'è? Safonov. Safonov. Bellissimo. Che dicevamo prima, per chi si fosse collegato adesso, è una scrittrice che porta i suoi pezzi, quello che scrive, in giro per teatri e li legge con questo fare molto teatrale, così può dire, no? Li legge interpretandoli, scusami. Una volta infatti, quando c'era la TV, che c'era solo la radio, viva Dio che c'erano le persone che leggendo tu eri a casa ad ascoltare e ti immaginavi, vedevi le espressioni, capivi perfettamente. Infatti. Allora, poco fa... Non volevi fare il doppiatore tu? Magari sarebbe un mio sogno. Vabbè, è il doppiatore, non è che voglio farlo per lavoro, però doppiare qualcosina, a me piace un casino usare la voce. E allora, poco fa ci ha letto un pezzettino di un suo pezzo che riguarda quando uno porta il proprio cane fuori, gli altri lo vogliono per forza toccare. Ma che cane è? Ma che sesso ha? Eccetera, eccetera, no? Però Arianna ha scritto un libro che si chiama Fottuta Campagna. Io ho visto un suo videoclip dove prende uno dei brani tratti da questo libro e lo legge ed è molto divertente. Siccome stiamo parlando di api, del flow hive, del vivere in campagna, tutti che dicono che delle piante, adesso parleremo poi delle piante, che bella la vita in campagna, ma la vita in campagna dal titolo del libro di Arianna forse possiamo capire che non è così tutto rose e fiori. Guarda, ti leggerò veramente una riga per una riga. Riassumere l'intento di Fottuta Campagna. Ecco, quando sostengo di vivere in campagna so di essere imprecisa perché in realtà io non vivo in campagna, sopravvivo ad essa in senso letterale, cioè vivo al di sopra di ciò che il mio fisico e la mia psiche potrebbero sostenere perché è veramente così, nel senso qualsiasi moda, qualsiasi tendenza che adesso siamo costretti a subire, no, noi partiamo in quarta esattamente come ho fatto io 3 anni fa, vado, basta, mi apro il bed and breakfast, prendo 2 caprette, che ci vorrà mai, no? Che ci vorrà mai? E invece poi sono successe tante di quelle cose. Ma infatti, allora raccontaci che ho... anche... Sì? No, che... no, allora, tu hai detto che vivi in campagna da 3 anni. Esatto. Tu quindi sei partita all'avventura finalmente. Sono arrivata a 31 anni in campagna in un posto con 12 abitanti in età fertile, quindi in età fertile. Beh, posto migliore perché così non c'è l'inquinamento, perché la vita è più a dimensione d'uomo, perché vivi con dei ritmi più tranquilli, quindi non sei sicuramente tu non sei stressata. C'è uno stress diverso però, cioè? Per esempio c'è il buio. Allora, no, non siamo più abituati al buio, noi viviamo nelle grandi città, sì, tutto illuminato. Il grande nemico della vita in campagna, il buio, è come un ragazzo della ONG che raccoglie le firme per strada. Se restate calmi e proseguite, decisi per il vostro percorso, lui si intimorisce, non vi disturba, non vi chiede niente. Ma se gli fate sentire l'odore del panico, è finita. Allora, per affrontare con serenità il tragitto che va dalla macchina al portone di casa mia, io mi sono inventata un piccolo escamotage. Mi preparo una scaletta con i pezzi da cantare a voce alta, no? Mm-hmm. Vi ricordate quando eravamo piccoli che ci dicevano scendete giù, vai giù in salotto a prendere quello, io scendevo. Il problema è che quando sei in mezzo al buio più totale del bosco e vai magari a prendere un bicchiere di latte dal vicino, finisci di cantare il pezzo e senti, devi avere una scaletta pronta perché non basta, mi sono creata la scaletta per cui finisco il pezzo di Duran Duran, tacco mina subito, così non c'ho una playlist da utilizzare al buio, playlist buio, cioè, antidiarrea, cantare ti dà più coraggio da sé. È così. Vabbè, guarda che secondo me tu sei molto brava ad avere questa, come si dice, questa visione dissacrante, ironica, ma non torneresti a vivere in una città. Ti faccio un gesto che non si può vedere. Ha fatto il gesto dell'ombrello, comunque, ve lo dico. Fottuta ma amata campagna. Fottuta ma amata. Appunto, non torneresti più in città. Assolutamente no. Assolutamente. Ognuno ha il suo habitat poi, eh? C'è anche gente che non è possibile che riesca a vivere in campagna e viceversa in città. Sì, però ma... ecco, sono una grande fan dell'Appennino. Che sì, poi in questo momento sì, sono rimasta. Siamo io e partigiani quelli che sono ancora lì. Ancora là, gli hai detto che è finita la guerra. Che sono ancora lì che girano, che cercano rifugio, poveri partigiani. Senti, no, ma tu poi però viaggi tanto, quindi non è che sei quella che sta in campagna H24 365 giorni l'anno e ti schioppi veramente tutto quello che è. Perché poi in tutti i posti ci sono i pro e i contro, uno decide quali sono i contro o meno contro per ognuno di noi, no? Ma viaggi veramente così tanto? Sì. Eh beh, sì. Cioè, è anche un po' questo, no? La gente del posto infatti mi dice: ma che campagna, campagna, che te domani sei lì, domani sei... perché... Quindi, giuro, adesso, quindi è un modo per rigenerarsi, andare in campagna. Un poco di qua e un poco un di poco là. Di qua. Che animali c'hai tu? Io ho tre gatti, anzi due gatti e Sofio, che è un altro gatto di cui parleremo a parte. Sofio. Perché ci sono Sofio. Dei gatti che hanno la dignità superiore agli esseri umani. E poi ho un cagnolino che si chiama Mila, che doveva essere qui oggi. Però... ma ho pensato che non fosse... No, no, a saperlo... Cioè, noi odiamo i cani, tra l'altro. Sì, certo. Me l'avevano detto, cioè. Esatto. No, e poi una cosa interessante, in questo territorio che... parliamo appunto dell'Appennino, poi si è tornato il lupo, quindi adesso c'è tutto sì, questa no, speriamo vedi, che lo proteggano veramente questa polemica, perché i lupi sono fondamentali veramente per, come si chiama, l'ecosistema, eh sì, quella cosa bio, bio, eco bio, ma che cacchio, l'ecosistema mi sembra un po' più complicata che così, no. Facile. Allora, detto ciò, caro il mio Vaira, non volevi leggere un pezzetto e farci sentire come sei da doppiatore? Ma certo, ma che ci vuole, scusa, ma che ci vuole prendere un testo adesso di Arianna e leggerlo come... Allora, ti lascio bio. No, non fai, dai. Lo rovino però, cioè, perché non ce lo facciamo leggere da lei invece? Cioè, tu che cosa ci vuoi dire sul biologico? Che tu oggi tutto deve essere bio. Dipende se devo dirvi delle cose radiofoniche o no. Come no, quelle no radiofoniche. Quelle non radiofoniche. Proviamo. Corriamo questo rischio. E allora vi leggo il pezzo. Eccoci. Ed è proprio qui, negli studi di Radio 24, che i nostri esseri umani di un tempo si riunivano attorno a degli strani aggeggi che chiamavano microfoni. A proposito di questo, però, ecco, continuiamo invece con Arianna, che ha qualcosa da dirci di più interessante. Mi hai rotto il... bio. Si può dire? Si può dire. Con i tuoi gnomi sulle confezioni che salutano, con i tuoi fiocchetti di corda, con le tue buste della spesa shopping bag in garza o carta di riso disegnate da quell'artista che si ciba solo di radici estratte dai sederi dei neonati islandesi di notte col pelino. Perché è così, no? Adesso, e questa è una cosa un po' dissacrante che dico in questo pezzo, cioè il biologico è ben altro del reparto, quello con la staccionata di legno sì, al supermercato con gli gnomi appesi, no? Cioè, sì. No, la terra è bassa. È bello vedere... Quindi c'è bio e bio, c'è bio e bio. Sì, poi c'è il bio vero e il bio dove c'è dentro un 5% di bio e il 95% di schifezza. C'è il packaging bio, cioè il bio che ti si presenta, ecco. È il bio vero, cioè che cos'è il vero biologico che... Cioè il bio del supermercato è come un cantante punk al teatro dell'opera, cioè beh. Stona. Sì, sì, beh, però sai, lì bisogna accontentare un po' tutti. No, ti stavo osservando perché secondo me tu quando scrivi sono di getto le cose che ti vengono. Tu osservi proprio una realtà e la vedi secondo me con delle lenti diverse dalle nostre. E risparmi un sacco di psicanalisi. Hai visto? E fai anche una mano a chi legge perché poi osserva le cose dal tuo punto di vista, quindi fantastico. E questi sono tutti brani che tu hai scritto... Adesso non sono presenti su questo Fottuta Campagna, ma questo brano che ci hai detto adesso del bio è sul tuo blog, giusto? Vergognosamente sì. Vergognosamente. Nel senso che mi fa schifo poi la parola blog, la trovo veramente deprimente. Come dovrebbe essere chiamato? Io mi piace chiamarlo contenitore di brani comici. No, che bello blog se fa prima. Appoggio. Però ecco, il blog mi sa di fashion blogger, no? Quindi dei consigli, dei tacchi. Invece questi sono pezzi, mi piace dire, di comicità missionaria, perché è un lavoro sociale. Di comicità missionaria. È vero. No, di comicità missionaria è vero, è molto sì, interessante, sì, sì. Però il blog che ti frega. Vabbè, insomma, questo blog contenitore si chiama Madame Pipì. Vedi, blog contenitore che mette un po' d'accordo, tu, si chiama Madame Pipì. Madame ed Pipì. È appunto... Madame Pipì, Pipì? La Pipì Luri, sì. E perché Madame Pipì? Perché la signora che pulisce i cessi in Francia si chiama Madame Pipì. Noi la chiamiamo donna delle pulizie in Francia. Sono fichissime, la chiamo Madame Pipì. Fantastico. E mi piaceva questo piccolo gioco di parole tra Madame, che è un po' la ricerca grammaticale che voglio fare sui miei pezzi, no? Ripristinare l'italiano in un'epoca in cui ci scriviamo perché con la K sul telefonino, ecco. Sì, lo so. E Pipì, comunque argomenti che purtroppo riguardano la nostra povera società, molto simili ai nostri liquidi di fisiologici. Bello, bellissimo. Bello. Molto, molto, molto interessante. Senti, tu sei in teatro in questo periodo, vero? Giro un po'. Il 31, proprio adesso, sono a Roma. Sarò a Roma all'Arciliuto. All'Arceliuto. Con che cosa? Con quale testo? Con uno spettacolo che include tutti i miei pezzi, che si chiama Reading Tristo Comico. Reading, quella risata che comico. Dici, ascolti e dici, ah, che vita di merda. Beh, lei ha una mimica che funziona e che aiuta sicuramente, però già in radio riesce a farsi comprendere bene. Senti, ma la storia, quanto tempo abbiamo, Peter? Sta per finire. Saluta. Ah, caspita. Vabbè, tra poco ci dirai di Sofio, però, perché io voglio sapere che cosa è successo a Sofio. Che saluto. Salutiamo Sofia, salutiamo. Facciamo un break e ci sentiamo fra poco. A fra poco. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Amore, però io adesso vorrei dire due cose sul mondo dalla prospettiva delle piante. Sentiamone. Intanto basta fiori recisi. Io... Questa è la prima. Ma no, vabbè, ho capito, ma non è l'elenco della spesa, eh. Che pizza. No, allora, no, perché... Basta fiori recisi. Sì, abbiamo parlato mica anche con Stefano Mancuso delle piante che anche loro sentono, cioè non è una cazzata. Sentono, il fatto ma non soffrono. Sentono, ma non soffrono, non si sa ancora, sentono. Comunque sentono anche gli odori. Percepiscono le sostanze chimiche che sono presenti nell'aria, no? Fiutano per esempio il benessere delle piante vicino a loro, oppure si allontanano dalle piante appassite avvinghiandosi a quelle rigogliose. Ma è vero, perché io ti sto leggendo parti di studi che sono stati fatti. Addirittura si dice che le sensazioni provate dai nostri amici verdi sono diverse a seconda dello stimolo ricevuto, che sia una morbida carezza oppure il percepire di gocce di pioggia, perché sono molto sensibili al tocco. Pensa, ho letto una storia. A me non piacciono i fiori recisi, tu lo sai. Perché mi ha sempre dato l'idea che soffrissero. Sì, no, ma che fossero morti, che li vedi nel vaso, vedi il morire lento di questa pianta, no? Quindi a me piacerebbe che se uno deve regalare un fiore, una pianta la regalasse con la terra, con tutte poi... le radici. Sì, ma che mi fai l'eco? No, sì. Comunque, in tutto ciò, voglio dire, c'è addirittura ho letto una storia che la pianta sente quando c'è, per esempio, un bruco. Io ho sempre baciato i fiori, li bacio, mi piace accarezzarli, annusarli. Quando ci sono i bruchi che li vanno a mangiare le foglie, loro soffrono di questa cosa qui. Allora cosa fanno? Emettono un odore, un profumo, che dicono che sia simile all'odore della lavanda, perché così chiamano aiuto, avvisano intanto le piante vicino che c'è un pericolo lì vicino. Ma io lì per lì mi domandavo, dico, chiamano aiuto a chi, che queste poveracce sono ferme? Chiamano aiuto alle api o alle vespe, perché la vespa o l'ape ammazza il bruco iniettandogli dentro tutte le uova, poi il bruco esplode, le api, una fine tremenda. Solo che così allontanano tutti i bruchi dalle piante. Ma questa è una cosa che fa una particolare pianta o tutte le piante? No, non è che tutte le piante emettono profumo di lavanda, se... Quasi tutte, da quello che ho letto io, quasi tutte. Qual è l'articolo che me lo vado a allora, magari chi vuole può approfondire? Si dice addirittura che siano dotate di geni simili ai nostri, che a loro modo possono vedere, annusare e sentire, pensa. Influenzano anche il nostro sistema immunitario, quindi bisogna avere veramente attenzione anche alle piante, come si prendono, come si usano. Trovate l'articolo, se volete approfondirlo lo trovate su larepubblica.it. Il titolo dell'articolo è "Così le piante sentono il pericolo e chiedono aiuto per salvarsi". Interessantissimo. Visto, molto interessante. Ah, a proposito, però aspetta, l'altro giorno quando c'era Attilio Fontana, con cui ho fatto adesso qualche volta Scappano, la mia commedia, il mio debutto teatrale, mi raccontava una cosa. Possiamo provare a chiamarlo, Miriam? Proviamo a chiamare Attilio, ti do il numero. Adesso intanto che prova. Dai! Ma sei antipatico però, eh. Io? Ma non ho capito. Anche tu cosa ridi? Sofonof, soforo, sorofor, forfor. Non riesco a rimettere la posta alla mandibola. Forfos. Guarda che sono stufa. Ecco, appunto. Guarda, certo. Che non ne posso più, non ne posso più. Proviamo a chiamare Attilio. Pronto? Pronto? L'hai pure trovato, ma che culo. siamo al telefono di Radio 24, come stai? Bene, bene, voi come state? Bene, bene. Senti, siccome stavo parlando di piante, tu l'altro giorno mi hai raccontato una cosa molto interessante e anche divertente su un tuo amico quando andavi in Sicilia, ti ricordi? Sì, come no, sì sì. Che fa? Racconta un po'. In Sicilia. Praticamente, insomma, a parte che ho letto degli studi americani in quel periodo di queste piante, cioè che vari tipi di piante ascoltando diversi tipi di musica crescevano in maniera differente. E la musica più fertile era proprio l'heavy metal. Ma veramente? Ma che stai dicendo? Non è Mozart, Bach? No, c'era musica classica, pop e heavy metal. Le piante più vigorose erano quelle che ascoltavano. Beh, ci credo. Però dico, ammazzo sti americani, sono forti gli americani, pensavo, no? E invece vado in Sicilia da questo mio amico che è a Licodia Eubea, che è un paese, diciamo, nell'entroterra siculo, e a un certo punto, passando vicino a questi campi di ciliegie, sentivo la musica a palla in mezzo alla strada, una strada di campagna, dei tornanti. Dico, ma che cos'è questa cosa? Lui dice, guarda, è mio cugino che da quando ha messo la radio a palla alle piante, a questi alberi di ciliegie, insomma, pare che il raccolto sia del 20-30% superiore. È una miseria. Ma veramente? Ma gli metteva heavy metal? No, gli metteva della radio, adesso non so che radio. I ragazzi italiani metteva. Che italiani. Se questo fosse vero, lui è uno dei ragazzi italiani, Attilio Fontana. Era... Sì, è vero, io ognuno ha i propri peccati. Il ragazzo italiano. Lascia fare che hai tirato su, come si dice, mandrie di adolescenti che si ricordano perfettamente di te. Beato te, bagni di folla di femmine infogliate. Ho rovinato molte adolescenze, lo ammetto. No. Mai quanto il metal, però. Allora, Attilio, devi sapere che qui con noi c'è... Eccoci, ce l'ha messa su. L'abbiamo proprio recuperata. Proprio a tradimento, così. È il nostro regista che è velocissimo. Appena menziona una cosa, ce la tira su. Ascolta, volevo dire, no, ti prego, te lo ricordi ancora o te lo sei già dimenticato, pezzetti della nostra commedia sui cani? Perché, fra l'altro, devo dirvi che Attilio aveva la parte di Attilio, l'avrei voluta fare io. Attilio, ovviamente, l'ha fatta benissimo. Anzi, grande, i primi applausi a scena aperta ce l'aveva lui. Caratterizzato il toscano, ma lui è quello che praticamente il monologo di Attilio è di quello che non sopporta più quelli che hanno i cani, e quindi dice, te lo ricordi ancora un pezzetto nell'autogrill, lo puoi fare o ti pigliano per pazzo e ti ricordano? C'è la polizia, vediamo se non mi arrestano. Dai, vai. Cioè, questo Paolo, faccio una piccola introduzione perché sennò chi cambia al momento dice, ma questo è pazzo, che entra dentro questa casa, insomma, viene un po' torturato da queste cose sui cani, a un certo punto esplode la fonte toscana come nella commedia, via. Esatto. Ma vi rendete conto e parlate solo del vostro cane? Che è il vostro unico interesse? Che rompete le scatole a tutti col vostro cane? Volete che lo si ammiri, lo si guardi di continuo? E guarda come salta, come gioca, com'è incredibile. Guarda come ti guarda. Ma poi bisogna solo guardarlo, no? Bisogna rimanere estasiati. Il vostro cane è incredibile. Non ho mai visto uno così. Il peccato più grave si possa commettere nei confronti dei padroni di un cane è di non guardarlo, di fingere che non ci sia. Ebbene sì, a me non mi va di guardarlo. E non mi va che lui mi guardi. Ah, ma vi ricordate quando sono venuto a presentarvi Panda? È subito venuto ad annusarlo sotto la gonna. E poi dico, lo sapete che il vostro tutù, quando gli viene voglia, viene a masturbarsi sulla mia gamba, senza preoccuparsi del fatto che ne abbia voglia o meno. E che dire poi di quell'espressione, di momenti di eccitazione, di quegli occhi fuori dall'orbite, quella lingua molle fili di bava sui pantaloni. Oh! Dico, ma avete rotto i coglioni, voi e il vostro cane. E qui partiva un applauso scrosciante di tutti quelli che non so, che poi va avanti. Dopo tutto il primo tempo con questo tutù, tutto attorno a tutù, tutto che ruota attorno al cane, lui finalmente ha uno sfogo e dice basta. No, anche perché poverino, io l'ho maltratto dicendogli, ma che sei scemo, ma non ti rendi conto quanto sto male io che non trovo più il cane, sai che cosa come mi posso sentire io? Giustamente lui sbotta. Senti, dove stai andando, Attilio? Sto andando ad Andria, dove ho un laboratorio di ragazzi che è di teatro, e vado a fare uno spettacolo con i ragazzi che si confrontano con Lucio Dalla. Si chiama Un Selfie con Lucio Dalla. Sto finendo di montare questo spettacolo nuovo. Grandioso. Bene, bravo. Bene. Adesso io proverò magari, come si dice, a coinvolgere nella nostra idea, nel nostro progettino della web series, magari anche la nostra ospite qua oggi, che non si sa mai. Che si chiama? Arianna. Arianna? Sora Forofo. Forofo. Non lo so, c'è Porcelli. Quello mette d'accordo tutti. Non so, non riesco a dire il cognome russo, capisci? Safanov. L'hai letto, Ciccio? Prima però. No, l'hai letto anche adesso. No, adesso no, c'ho il microfono davanti. Che bugiardo. Attilio, grazie di essere stato ragazzi con noi qui. Ti do un bacione grande. Attilio Fontana. Ciao ragazzo. Vi saluto. Italiano. Chiudo con una frase sempre di Paolo che si pente nel secondo tempo e dice: bisognerebbe difendere i cani da bambini. Esatto. Grande, grande Attilio. Grazie Attilio Fontana. Ciao, un bacione anche a Clizia e a Blu. Ciao caro. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Hai visto il ragazzo italiano, Arianna? C'è un bambino fantastico che ha chiamato Blu, che è veramente... Blu? Blu. Okay, Blu Fontana, poi il cognome Fontana. Beh, sempre meglio dei Porcelli. Beh, no, no, ma ogni nome, ogni cognome c'ha il suo perché. Senti, ma ci racconti di Sofio? Io sono curioso. Sofio. Il gatto Sofio. Bisognerebbe fare un minuto di silenzio, però siamo in facciamolo, radio. Facciamolo, facciamolo. In radio, vediamo che cosa... Allora, prendiamo spunto facciamo da tuo papà. Un minuto di silenzio, vai. Un minuto di silenzio. E non, ma non bisbigliamo, non... Ho capito, ma non è passato un minuto. Ma stavi biascicando il regista. Secondo m'ha me cacciato, ci licenziavano. Ma ha detto dopo che non si può fare minuti di silenzio. Allora vai. Sofio, quando arriva la sua ora, viene messo in vendita in uno di quei negozi orrendi, avete presente? Viene addirittura acquistato da una famiglia torinese che, falsa e cortese, lo accoglie in casa ad un'unica condizione. Che? Che sia femmina. Come? Cioè, Sofio è un maschio. Allora, al momento dell'acquisto viene comunicato alla famiglia che purtroppo è rimasto solo un maschietto, ma quei miseri esseri umani, de merda, non importa, lo chiameranno Sofia. E con tutto quel pelo nessuno saprà la verità. Passano gli anni e il mio piccolo ermafrodito vive più o meno sereno, ma a causa di questa spiacevole cosa soprannominata crescita, a un certo punto, che tutti gli esseri umani affrontano, il felino A non è più appetibile e la signora di questa discutibile famiglia un bel giorno si convince che la gatta Sofia sia responsabile della sua asma. Per Sofia non c'è più posto. Provano a riportarla in negozio, ma a 4 anni un gatto è considerato invendibile, esattamente come un bambino. Quindi inizia la caccia all'adozione, conclusasi con la minaccia: o me o la gatta, se nessuno la piglia, finirà in gattile. Arrivo io a questo punto, onorata di fargli da mamma, ma dopo 4 anni mica lo potevo chiamare Giuliano. Quindi optiamo per Sofio, erotico, irresistibile. Le prime 2 settimane le passa sotto il mio letto, esce solo quando io non sono in casa, si affaccia, controlla bene e scivola fuori per mangiare, bere e farmi una gigantesca diarrea sul cuscino. Lato faccia. Sofio. Sofio vive ancora ad oggi, è in fase di beatificazione, incazzato nero con tutti, picchia tutti dall'alba al tramonto, momento in cui finalmente si riposa un attimo e riposa la sua zampa vendicatrice, si siede sul davanzale più alto del fienile, con la criniera bionda che gli svolazza come un fazzoletto infuocato dalla luce del sole, che muore dietro le colline, perché anche il sole muore, ma Sofio no, e se gli girano picchia pure il sole. Fantastico. bellissimo. Quanti anni ha adesso Sofio? 11, amore della mamma, lo saluto. Amore. Ma lui picchia tutti? Cioè tu, sì. Noi arriviamo a Rosita, ciao no, Sofio. Ma anche le persone? Ma è bello che non graffia, lui picchia, quindi usa il muscolo proprio con quel ma suo... Ma le persone o anche gli altri gatti e gli animali? Tutti. Veramente? Tutti. E ha la mandibola rotta, purtroppo, non so in che modo, quindi vive con la lingua di fuori ed è tutto ricucito col fil di ferro. No, è un'esperienza, amore. Sofio. Ma come mai la mandibola rotta? E chi lo sa? Cioè, era troppo bello così. E qualche invidioso gliel'ha no, rotta. No, non ci voglio credere. Cioè, tu l'hai, ma non l'hai quando l'avevi tu. Già... Io l'ho adottato perfetto, a parte questa insomma disfunzione sessuale. E poi un giorno si è presentato da me, è uscito in giardino ed è tornato, avete presente, Dio, quando i fumetti perdono la mandibola, la parte di sopra. Ma oggi insomma ve ne parlo perché... Senti, ma allora, lui, allora ho capito, lui è ermafrodite oppure... Ma no! Ermafrodite oppure... No! Cioè, fa allora, parte la... di quelle depravazioni che spesso i padroni ma di no. animali... Ecco, allora, no? Giusto per chiarire, perché magari non si capiva. Invece la storia è che questa famiglia voleva il gatto femmina. Voleva la femmina. Ma cioè, siccome maschio, ha preso il maschio, ma sì, chiamiamola guardi, tanto, Sofia. Non può dimostrarlo. Certo, sono gli esseri umani che so. Allora, senti, beh, abbiamo un altro... Vi volevo ricordare, scriveteci e chiedimi se sono felice @radio24.it e ci, un attimo un break e ci ritroviamo subito dopo. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Io non solo sono battutista, ma sono anche siglista. Cioè? Perché so trovare le sigle fantastiche. Sono anche titolista, perché sono brava. Le sigle. Certo, questa musichetta qui, sì, sottofondo. No, trovo le sigle giuste per qualunque situazione, i titoli giusti. Sono un piccolo genio compreso. Celentano, che simpatica siglista. Senti, lanciamo la nostra rubrichetta. Lanciala. Piatti e ciotole. Nei sensi proprio. Piatti e ciotole. E quindi di conseguenza è qui con noi, come di consueto, Mara Di Noia. Mara? Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, come di consueto, buona domenica a te. Era qualche domenica però che Mara non c'era. Eh sì, perché c'è stato Igor Sibaldi. Sì, ci siamo persi un attimo fra i nostri meandri lavorativi, i nostri mille viaggi, no Mara? I nostri mille viaggi, sì, infatti. Allora, Mara Di Noia, che è la nostra alimentarista di fiducia, ho trovato il ritrovato, più ritrovato di tutti per l'alimentazione, cioè. Mara. Ah, certo. Dimmi, Angelo. Il magico potere del digiuno. Praticamente non bisogna mangiare. Certo. Ho qui per le mani un libro edito da Salani, scritto da Yoshinori Nagumo, che è un tizio giapponese. Oltre 1 milione di copie vendute in Giappone, pensa, chissà in Italia. Guarda, c'è, Angelo, anche un gruppo di nutrizionisti veterinari con cui stiamo lavorando. Vedi? E il mitico potere del digiuno anche per i nostri animali domestici, quindi non solo Vedi? Per le persone, ma un po' a tutti fa bene ogni tanto una depurazione profonda. Sì. Qualche settimana fa un servizio delle Iene sul dottor Longo, per esempio. Sì, non so se l'hai visto. C'è una frase che mi ha colpito, che è: il nostro corpo è programmato per resistere alla scarsità di cibo, non al suo eccesso. All'eccesso. Infatti stiamo andando oltre la nostra natura negli ultimi 30 anni. Bene, fantastico, così non ci saranno più problemi di peso, di essere esatto, in forma. E di malattie legate all'eccesso di peso. E di malattie, esatto. Parlo io che arrivo da una nottata. Ecco, ma non c'è tempo che ci appropringuiamo al digiuno e decidiamo se digiunare. Esatto. Che cosa ci proponi per questa domenica? Allora, oggi vi propongo un dolcetto da condividere con i nostri amici animali, perché anche loro hanno bisogno. È vero del digiuno, ma a volte è anche il piacere di condividere un dolcetto semplice, può essere così molto tenero, soprattutto visto che è domenica. Allora, io sono legata all'idea del dolce della domenica, per cui un'immagine che mi piace sempre molto. Allora, vi occorrono 220 grammi di farina di castagne, 50 grammi di nocciole tritate, 50 grammi di amido di mais, 50 grammi di olio di semi, 80 grammi di malto di riso, 40 grammi di latte di riso, la punta di un cucchiaino di vaniglia in polvere, mezzo cucchiaino di bicarbonato, un cucchiaino di aceto di mele e un pizzico di sale marino integrale. Uh-huh. Questi sono dei dolcetti gluten free, perché oltre ad esserci tantissime persone sensibili al glutine ormai per problematiche varie, anche i nostri amici animali iniziano a tollerarlo poco. Per cui ogni tanto si può, al di là dell'essere celiaci o meno, si può introdurre qualche novità nella nostra settimana alimentare. Allora, cosa dovete fare? Versare in un recipiente la farina di castagne, l'amido, le nocciole tritate, la vaniglia, il pizzico di sale e bicarbonato e mescolare bene. A questo punto aggiungere tutti gli ingredienti liquidi, l'olio, il malto, l'aceto di mele e per ultimo il latte di riso. Versarlo poco alla volta fino ad ottenere un impasto con una buona consistenza che sia facile da stendere. Ritagliate dei biscotti della forma che desiderate e li cuocete in forno già caldo a 180 gradi per circa 7-10 minuti. Come potete vedere o sentire o gustare quando li farete, non hanno zucchero, quindi sono privi di saccarosio. Mm. Utilizziamo dei dolcificanti che sono più rispettosi sia dell'organismo umano che dell'organismo animale. Mm-hmm. E per dolcificante io intendo il malto di riso, che origina dalla cottura prolungata di questo cereale. Mm. E quindi è assolutamente naturale. Non usiamo burro, ma usiamo un olio di semi leggero. Non usiamo latte, usiamo un latte di riso. E tutti questi elementi fanno parte di un mondo vegetale che ci fornisce tutte le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno. Sono privi di colesterolo, perché il colesterolo è presente soltanto nel regno animale, e nel regno vegetale non esiste, ed è anche gluten free. Quindi cosa volere di più dal nostro dolce della domenica? Che buono! Mamma mia, guarda, abbiamo ascoltato il religioso silenzio. Senti, con l'acquolina in bocca, immagino. Ovvio, poi l'ora è quella. Eccoci, senti, il pranzo è servito, col grande Corrado. Senti, Mara, grazie. Allora ci sentiamo magari per domenica prossima. Va così bene, ci dai qualche altra ricetta. Una buonissima giornata. Anche ciao a te. Tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Che ne pensi, Arianna, di queste ricette? Allora, non cosa sapevo. Intanto forse ti sfugge un passaggio, che lei fa dei piatti che vanno bene sia per noi che per i nostri cani e gatti, perché lei ha sia cani che gatti in casa, Felice, lei è un veterinario. Devo cucinare due volte? Io cucino da cani, quindi è perfetto. Esatto. C'è chi ha già risolto il problema. C'è chi ha già risolto il problema, esatto. E quindi lei fa questo piatto che possiamo mangiare sia noi che loro, quindi si impiatta e si inciotola. Che è fantastico. Uno solitamente fa la pappa per i cani da una parte, la nostra. Devo iniziare a fare queste ricette io, però. Dovresti, dopo due anni che dovresti pure tu, però. Dovresti, ma io già lo faccio. Ma che fai? Ma certo, quando cuciniamo al cane la quinoa. Quando cucino al cane la quinoa. Tranne la carne. Sì, lo cucino pure io quando tu non ci sei. Mi aiutando ha detto la stronzetta giornaliera. Quanto esatto, manca, vedi? Peter, quanto manca? Tre minuti, te l'ho detto. Tre minuti, mamma aspetta mia, che continuiamo appunto con questo passo. Esatto. Cosa ci legge invece la nostra Arianna Safonov? Visto che comunque ho notato che siete anche un programma che dà contenuti pregni di scienza. Vero? Assolutamente. Allora io avrei sì un pezzettino sulla famosa moda delle ricerche, no? Sapete, siamo circondati dai, da questa gente. Allora, da una ricerca portata avanti da un'equipe di scienziati nutrizionisti dell'Università di Melbourne pare accettato che i consumatori di alga spirulina alla fine crepino esattamente come gli altri. Oppure qual era l'alga spirulina? Quella di, ci sono due tipi di alghe, qual è quella? Ma che di moda tante alghe, tante, se ne ricorda più Vaira, vedi? No, non me la ricordo più. Vada. Ma non so neanche, cioè, la spirulina è un'alga? È, sì, un'alga, è un'alga che ci stanno facendo credere, o magari è anche vero, però basta anche, no? Che sia no, ma è l'alga quella che si usa nel mangiare giapponese intorno ai roll, o un'altra? Sì, ma no, è un'altra alga. È un'altra. No, perché Mara proprio ci diceva che l'alga quella che si usa nel ristorante giapponese puoi mangiare quanta ne vuoi al giorno, non fa niente. Ce n'è un'altra invece che non puoi mangiarla mangiarne troppa, perché invece fa malissimo se si va in cos'altro. Bellissima questa cosa della ricerca. Sì, ce ne sono diverse. Per esempio, uno studio sui minorenni americani ha dimostrato che i polli del Kentucky Fried Chicken possono continuare a vivere nell'apparato digerente del consumatore fino a 16 mesi. Bella la ricerca scientifica. Esatto. Ancora ve ne do proprio un paio veloci. Ah, questo è molto uno studio di medici dietologi genovesi ha messo a punto un sistema innovativo di eliminazione di grassi e tossine che funziona anche sui cani, basato sulla teoria quantistica del vaffanculo. Ma non si ride in questo modo sguaiato, ridi un po'. Ma lo faccio se esatto. Senti chi parla. No, lo so, a me è proprio che quello è sobria, no? A chi credevi morire? Ma Peter, è finita la puntata, è la domenica scorsa. No, ma Peter mi piace, tienilo, che però potrebbe servire da qui in poi. Peter, teniamo questo loop. Ricordati che devi morire. Vai. A proposito di morire, c'è l'ultima. A proposito di quello che diciamo prima su lo studio, uno studio alimentare di un reparto di scienziati egiziani ha dimostrato finalmente che lo zenzero fa cacare e che se non fosse di moda la gente non se lo mangerebbe affatto. Bellissimo. Non si ride. Perché così. Capito, lo zenzero è forte, effettivamente. Vabbè, questo fa bene. Uno, avete capito, provato a darla a un cane? Non, cioè, lo mangio, io... No, ma non so mica se li usa Mara nei suoi piatti per il cane. Hai provato tu a darlo al cane? Io, il mio cane fa. Hai presente quando gli cade proprio dalla bocca tutto ciò che non è carne e pesce? Lo perde. Lo perde, come... vero? Non si può fare. Vabbè, allora intanto vi ricordo, non so quanto manca, Peter. Ci abbiamo fame, un minuto. Allora, allora intanto abbiamo grazie. Avuto, esatto, abbiamo grazie avuto qui con noi Arianna Porcelli Safonov, che è una scrittrice, ma anche attrice, ma diciamo, attrice, dai, diciamo, ma sì, diciamolo, ma sì, attrice. Lei adora scrivere, ha detto che se potesse starebbe 24 ore su 24 in campagna. Che trovate giusto tra pochi giorni, il 31, al teatro Arciliuto. Arciliuto a Roma. Uno dei teatri storici di Roma che ancora è aperto. E questa è una cosa straordinaria. Meno male, dai, meno male. Grazie di essere stata con noi, poi magari ci ricontatteremo in qualche modo. Ricordate di iscriverci a Chiedimi se sono felice @radio24.it. Se va a magna? Se va a magna. Mi raccomando, un bel piattino di quelli allo stile di Mara di Noia. Intanto buona domenica a tutti. Grazie Miriam, grazie Peter. Ci vediamo domenica prossima, ragazzi. Alla grazie. Prossima.